vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 25 dicembre, il sole in regione è sorto alle 7.36 e tramonterà alle 16.44. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno e buon Natale da Armando Mucchino e Rita Miccoli. L'unione fa la forza e così due cooperative storiche dello Spilimberghese, attive nel settore delle mele e del kiwi, si sono fuse dando vita ad una nuova realtà della frutticoltura regionale, già sbarcata con successo dallo scorso agosto sul mercato. La notte di Natale e le sue magie nel mondo contadino sono al centro poi della storia di Angelo Floramo. A seguire le prime novità della programmazione comunitaria 2023-2027. Per la rubrica della frutticoltura, la creazione di nuove varietà resistenti per combattere l'avanzare di nuove malattie e parassiti. In quella dei sommelier, un cappello introduttivo sul bere il vino, i perché tra storia e scienza, e nello spazio che dedichiamo ai fiori, le cure da prestare alla stella di Natale se vogliamo preservarla anche per il prossimo anno. In chiusura, andamento dei mercati, previsioni del tempo per la prossima settimana e il proverbio friulano della settimana. Si chiama Frutta Friuli, è una cooperativa di nuova costituzione in quel di Spilimbergo e già dal nome potete capire di cosa si occupa. È una fusione avvenuta al mese di agosto scorso, è già operativa e ce la descrive il suo presidente Livio Salvador. Si uniscono le forze per quanto riguarda la produzione del melo e per quanto riguarda la produzione del kiwi. Un po' di dati. Quest'anno abbiamo raccolto per la conservazione e poi per la futura commercializzazione 173.000 quintali di mele e 23.500 di kiwi. Questi saranno collocati principalmente su mercati internazionali, principalmente Nord Africa, Stati Uniti, Emirati Arabi, Israele, India, Brasile. Purtroppo siamo poco presenti sui mercati nazionali, in quanto con la grande distribuzione abbiamo delle difficoltà di accesso, ma soprattutto vediamo una contrazione dei consumi molto pesante che si può attestare intorno al 20% quest'anno. Quanti soci e la loro carta d'identità? Per quanto riguarda le mele, abbiamo un numero abbastanza modesto di soci che si aggira intorno a 40. Però si tratta di aziende strutturate e aziende abbastanza importanti con superfici altrettanto importanti. Mentre per quanto riguarda il kiwi abbiamo circa 130 soci, i quali sono di dimensioni medio-piccole che sviluppano una superficie di circa 250 ettari di kiwi, mentre sul melo controlliamo circa 400 ettari di produzione. Il vostro target, la vostra gamma di prodotto? Per quanto riguarda il kiwi, l'Howard, il classico kiwi verde, con un inizio di approccio per quanto riguarda il giallo. Mentre invece sul melo abbiamo stravolto completamente quello che è la produzione del melo in Friuli Venezia Giulia, in quanto arriviamo da una cultura che era abbastanza improntata sul mela golden sulla quale non potevamo essere competitivi in quanto altre regioni sono molto più performanti rispetto alla nostra. Allora ci siamo orientati verso una sostituzione, un rinnovo degli impianti, questo perché ormai erano datati e poco produttivi. Allora ci siamo orientati su varietà internazionali che i mercati accolgono molto favorevolmente, mi riferisco al Gala, all'Ino Restori, al Granny Smith, mi riferisco al Fuji. Abbiamo stravolto completamente gli impianti, tant'è che oggi il Golden lo abbiamo diminuito a circa un 16% rispetto a quello che era all'inizio un 60-70% e abbiamo aumentato notevolmente sia il Gala che il Granny. Infatti il Gala siamo ormai sul 35%, il Granny siamo sul 16%, stiamo sviluppando questa nuova varietà, la Inore Story, che è una varietà tardiva, di un colore molto intenso, rosso, e questo si presta molto molto bene per i lunghi viaggi, difatti va particolarmente in India. Il Friuli Venezia Giulia è ancora terra di frutticoltura? Il Friuli Venezia Giulia è terra di frutticoltura. I nostri terreni sono molto vocati. Abbiamo delle importanti peculiarità. Mi riferisco all'acqua, anche se ultimamente con i cambiamenti climatici qualche problema lo abbiamo avuto. Però dobbiamo dire che a livello di qualità organolettiche siamo su livelli eccezionali. Abbiamo maggior colorazione, maggior durezza del frutto e soprattutto maggior dolcezza. Quindi queste tre peculiarità sono molto molto importanti e fanno del Friuli Venezia Giulia una zona particolarmente vocata. Le magie della notte di Natale nel mondo contadino friulano in questa storia che ci racconta Angelo Floramo. La vigilia è il tempo dell'attesa, quando tutto si dilata in una condizione che non appartiene solamente all'anima, ma anche al corpo e alla dimora, alla stalla, alla cantina, al paesaggio che abbraccia la comunità degli umani. Nella società contadina era la promessa che la fame atavica, profonda, ancestrale, che la tormentava, potesse alla fine essere placata dalla concessione del rito, stemperato nel tepore della casa attorno al focolare, vegliato per l'occasione dei più anziani, i vegliardi, per l'appunto. Il Natale cominciava 9 giorni prima, dalla novena, quando nelle chiese di ogni borgo friulano si intonava il canto del Missus, in cui l'angelo Gabriele annunciava a Maria la nascita miracolosa del bambino. Ma era nella lunga notte che precede il 25 di dicembre che il tempo si faceva magico per davvero. Qualcuno dal bosco aveva portato il ciocco di legno, il Nadalin, che battezzato con la grappa dal patriarca, avrebbe dovuto ardere fino alle prime luci del mattino. Se mai si fosse spento, il presagio sarebbe stato nefasto. Le donne mettevano sul fuoco la bulide, vino conciato con chiodi di garofano, ma non mancavano nemmeno le castagne lessate, le rape cotte, una zuppa sostanziosa addensata dalla farina rosolata in padella nel burro fuso, l'ont, e allungata con il latte, il vino nero e lo zucchero, quando ce n'era. Avrebbe riscaldato lo stomaco di chi usciva al freddo per assistere alla messa della mezzanotte, per poi riprendere il cammino nella processione del mattutino, durante la quale si cantavano i madings, capaci di evocare il silenzioso raccogliersi dei pastori attorno alla greppia della natività. In carne ai bambini che rincasando intonavano la pastorele, i canti della tradizione ripetuti davanti agli usci delle abitazioni, si distribuivano i sops e i lops, mele secche, pere cotte o noci. Se erano fortunati trovavano ad attenderli il pan di sork, la cui anima era quella della farina di polenta gialla, alle volte impreziosita di qualche chicco di uva passa. Una volta riunita attorno al fuoco, a casa, consumatasi la prescrizione del magro, la famiglia si poteva gustare un coccio di brodo fumante di gallina, quello con gli occhi di grasso, che sfumavano nella ciotola. Si mangiava in silenzio, mentre le mani si scaldavano per prime, i piedi solo dopo una lenta agonia, che avrebbe regalato i geloni, specialmente alle pelli delicate dei bambini. La minestra con le trippe era un lusso per pochi, ma per tutti era ormai Natale. In questo giorno di festa, con Marco Malison, responsabile tecnico e economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo quali strenne natalizie potranno trovare sotto l'albero i nostri agricoltori. Con il 1 gennaio inizia ufficialmente la nuova programmazione comunitaria 2023-2027. Lo scorso 2 dicembre la Commissione europea ha dato l'ok al piano strategico nazionale della PAC presentato dall'Italia. Ora siamo in attesa dei decreti ministeriali che formalizzeranno gli aspetti più tecnici e di dettaglio riguardanti per lo più i pagamenti diretti, vale a dire i seminativi. Sono temi molto importanti, quali la condizionalità, la definizione di agricoltore in attività, di superficie ammissibile ai contributi, il meccanismo di calcolo degli aiuti, insomma tutte cose sulle quali, legislazione alla mano, torneremo sicuramente in seguito. Nel frattempo però si è già mosso qualcosa sul fronte dello sviluppo rurale, tanto che la Giunta regionale nella seduta del 16 dicembre ha già approvato i primi bandi per il 2023. Di cosa parliamo in particolare? Iniziamo con il premio per il primo insediamento dei giovani in agricoltura. In realtà questo bando fa riferimento ancora alla vecchia programmazione e pertanto segue le regole già conosciute. Le domande potranno essere presentate in una finestra temporale relativamente breve, che va dal 2 di gennaio fino al 31 marzo. Poi con il 1 di aprile è prevista l'apertura di un nuovo intervento, questo sì relativo al piano strategico 2023-2027, con scadenze più comode. Attualmente la dotazione è limitata a poco più di 1 milione di euro, ma è verosimile che sarà integrata con economie risultanti da altre misure del PSR 2014-2022. Ma questo non è l'unico bando aperto. No, infatti ce ne sono altri due, uno relativo alle indennità compensative per le zone montane, l'altro per le indennità compensative per le aree Natura 2000. Si tratta di pagamenti a superficie a vantaggio di quegli agricoltori che operano in condizioni di particolare svantaggio o per motivi orografici, in quanto si trovano in zone di montagna, o per disposizioni di legge, in quanto parte dei fondi sono ricomprese in zone di tutela dal punto di vista ambientale. A tutti gli effetti questi due bandi sono i primi in assoluto riferiti alla nuova PAC 2023-2027, le cui domande scadranno al 15 maggio. Se la scadenza è a metà maggio, che fretta c'era di far questi bandi? Rispetto alla programmazione precedente, le due misure contengono diverse novità, ma quella che ha reso necessaria l'emanazione del bando è che le superfici oggetto di impegno dovranno risultare nella disponibilità dei richiedenti già a partire dal 1 di gennaio e fino al 31 dicembre. Da qui l'esigenza di emanare il bando prima della fine dell'anno, cioè prima dell'inizio della decorrenza degli impegni. La frutticoltura che cambia deve fare i conti anche con le malattie e i parassiti che cambiano e sono sempre più temibili. Il professor Raffaele Testolin ci spiega come si stiano sperimentando metodi tradizionali basati sull'incrocio e selezione di nuove varietà resistenti. Pesco e albicocco sono state devastate negli ultimi decenni dal virus della sciarca, un virus che rovina la frutta e la rende invendibile. Si stima che nel mondo siano stati sradicati finora molte decine di migliaia di ettari di pesco e albicocco. Dopo un paio di decenni di lavoro condotto da ricercatori in tutto il mondo, una soluzione l'abbiamo trovata e cominciamo a creare con metodi tradizionali basati sull'incrocio e selezione nuove varietà resistenti a questo virus. Un bel risultato, ma quanto lavoro! Il melo ha storicamente due brutte malattie fungine, la ticchiolatura e l'oidio. Entrambe creano danno se non vengono controllate con trattamenti antiparassitari adeguati. Il primo gene di resistenza alla ticchiolatura è stato trovato negli Stati Uniti attorno al 1920, 100 anni fa. Da allora, di geni di resistenza a ticchiolatura ne sono stati trovati una ventina nelle diverse specie selvatiche di melo e, da ripetuti incroci con varietà commerciali, siamo arrivati oggi ad avere molte varietà di pregio che non si ammalano di ticchiolatura. Un bel risultato, frutto di una collaborazione a livello mondiale. Anche l'Università di Udine ha fatto la sua parte e sta valutando una settantina di selezioni di melo tutte resistenti a ticchiolatura e molte anche ad oidio. Se sono rose fioriranno, ma intanto i ricercatori di Udine hanno lavorato dal 2008 con alterne fortune legate alla frammentarietà dei finanziamenti e non sono ancora alla fine del lavoro. Potrei continuare con le nuove varietà di susino resistente ai fitoplasmi, di pero resistente al colpo di fuoco batterico, di fragole resistenti al marciume del colletto, di ciliegio. Perché beviamo vino? Una risposta autorevole e argomentata ce la dà oggi Vladimiro Tulisso per la rubrica dei sommelier. Questi sono giorni di festa e di brindisi. Abbiamo già ricordato che per le feste di Natale si stima che ogni italiano, bambini compresi, stapperà più di una bottiglia. Ma perché l'essere umano è così ghiotto di vino e delle altre bevande alcoliche? L'alcol che tanto ci piace è l'etanolo ed è presente sul nostro pianeta da oltre 100 milioni di anni, ovvero da quando, in seguito alla diversificazione delle piante da fiore, la frutta è diventata disponibile. Ogni frutto che contenga più del 10% di zucchero è destinato a fermentare, un processo che porta alla formazione dell'alcol etilico. Quasi tutti i mammiferi gradiscono l'alcol. C'è chi ne fa grande uso, come la tupaia dalla coda piumata, che in Malesia si nutre con passione dei frutti fermentati della palma da cocco. Gli studi scientifici hanno confermato che alti livelli di alcol nel sangue sono all'origine del potenziamento di un ormone, l'epinefrina, che riduce le nostre inibizioni. È possibile che i primati, i nostri antenati che vivevano sugli alberi e si alimentavano di frutta, abbiano avuto una predilezione per i prodotti della fermentazione, un gradimento che ci hanno lasciato in eredità. E non solo a noi. Anche molte scimmie amano alimentarsi con frutti macerati, a conferma che i primati frugivori ci hanno insegnato a gradire la frutta alcolica. L'etanolo ha anche un'altra caratteristica che lo rende attrattivo. Ha un elevato valore energetico che, a parità di peso, è quasi il doppio dei carboidrati. L'etanolo, quindi, è anche una fonte energetica caratteristica che potrebbe aver reso l'alcol doppiamente attraente. Ma perché l'Homo sapiens, che non si nutriva più solo di frutta ma era diventato onnivoro, ha continuato a cercare l'alcol? Certamente l'effetto psicologico della sostanza con la perdita dei freni inibitori non va trascurato, ma alcuni studiosi vanno sostenendo con sempre maggiore convinzione che l'alcol abbia rappresentato nella nostra storia evolutiva anche un'essenziale strategia per la conservazione del cibo. Da qui la messa a punto di una serie di tecniche per la sua produzione a partire dall'uva, il frutto con più alta quantità di zuccheri e soprattutto l'unico fornito di acido tartarico, la sostanza in grado di garantire la conservabilità del liquido odoroso che noi chiamiamo vino. Vi ho proposto una possibile risposta alla domanda del perché beviamo alcol. Oggi lo facciamo per una ragione in più. Gli auguri di Natale. Prosit. La scorsa puntata il Sandro Spizzato, che ci cura la rubrica dei fiori, aveva parlato della stella di Natale. Oggi ci dà una serie di consigli per godervela anche dopo il periodo natalizio. La stella di Natale è una pianta tipicamente natalizia. Spesso dopo il Natale viene abbandonata e buttata via. Invece, se la pianta è sana, in primavera può essere potata e rinvasata, avendo molta attenzione al fusto e alle radici. Possiamo poi porla all'esterno in un luogo luminoso, lasciandola vegetare per tutta l'estate. Durante questo periodo procederemo con innaffiature regolari, concimandola almeno due volte al mese, con un fertilizzante equilibrato. Una buona luminosità favorisce la crescita rigogliosa, ma per la fioritura serve che le giornate si accorcino e che le temperature non scendano al di sotto dei 16 gradi. Perciò, a fine settembre, andremo a collocarla all'interno, dove inizieremo a concimarla con un fertilizzante ricco di potassio e fosforo una volta alla settimana. Ciò consentirà alla pianta di prepararsi alla fioritura. È ormai parte della nostra cultura ritenere che il lattice, il liquido che scorre all'interno della stella di Natale, sia un potenziale pericolo per la vita in casa dei nostri cani, gatti e animali. Questo perché alle volte potrebbe essere leggermente irritante per la pelle. La pianta non è fatale. Uno studio del 2008 dell'Associazione Americana dei Centri Antiveleni, che ha preso in esame oltre 800 casi di esposizione o di ingestione della pianta, compresi bambini, non ha evidenziato alcun pericolo per la salute. Per l'Animal Poison Control Center, un animale dovrebbe ingerire una intera pianta per risentire della presunta tossicità. Secondo studi recenti, questa bellissima pianta pare non far male a nessuno. Noi comunque, per sicurezza, teniamo i nostri amici animali lontani dalle stelle di Natale, se non altro per preservarne l'indubbia bellezza. E con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso in questa vigilia natalizia nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 31,40 e 31,70 euro il quintale ed esclusa il frumento tra 33 e 33,50, l'orzo, peso specifico 62 e 65, tra 28,30 e 28,80 e la soia tra 52 e 70 e 53,20. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 4,80 euro il quintale e la soia è diminuita di 5,70 euro. Contrattazione vivace dentro il forticolo di Udine con prezzi leggermente in rialzo. La lattuga Trocadero viene quotata tra 1,60 e 1,80 euro il chilo IVA esclusa, l'insalata Gentile tra 0,80 e 1 euro, le zucchine tra 2,50 e 2,80, i finocchi tra 1,20, i peperoni gialli e rossi italiani tra 2 e 2,20, i pomodori in grappolo tra 1,80 e 2 euro, la scarola riccia tra 2,60 e 2,80, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso tra 1,30, le pere Williams tra 2,30, le clementine italiane tra 1,20 e 1,50 e le arance italiane tarocco tra 1,60 e 2 euro. Buona e proficua l'attività nel settore della pesca, con prezzi in leggero rialzo. Alla corporativa pescatori San Vito di Merano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 8 a 33 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 8 a 20, le sogliole da 5 a 23, le passere da 7 a 12, i rombi da 27 a 40, i palombi da 7 a 16, le anguille da 20 a 24, le capesante da 14 a 20, le seppie da 8 a 12 e i calamari da 14 a 17. Prezzi stabili invece nel settore dei foraggi. Il fieno Mazzengo di pianura viene quotato tra 18 e 20 euro il quintale IVA esclusa. L'erba medica di prima qualità fra 34 e 35 euro e la paglia di cereali pressata in lieve calo viene pagata fra 11 e 13 euro al quintale. E con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Il mese di dicembre 2022, a parte poche giornate fredde attorno a Santa Lucia, verrà archiviato con temperature quasi sempre sopra la media. In questi giorni, con la presenza dell'anticiclone di origine africana, l'anomalia è stata ancora più marcata in quota, con valori che a 3.000 metri di altitudine sono stati superiori di quasi 11 gradi rispetto al normale. Oggi continueremo ad avere cielo grigio su pianura e costa, con possibili foschie e qualche debole pioggia o piovigine in serata, specie a est. Tempo migliore invece in montagna, soprattutto in quota. Anche domani in montagna, soprattutto nei settori più in quota della Carnia, a Sappada e nel Tarvisiano, avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso o variabile, con marcata inversione termica a fondo valle, mentre a bassa quota sarà in prevalenza coperto, con possibili deboli piogge sparse su pianura e costa, specie sulla fascia orientale. A Trieste e sul Carso le piogge potranno essere un po' più abbondanti. Saranno anche probabili delle foschie e forse anche delle nebbie, sempre su pianura e costa. Nella notte fra lunedì e martedì, il passaggio di un debole fronte farà fluire, purtroppo solo temporaneamente, masse d'aria più secche e di poco più fresche in quota, con zero termico in calo fino a 1500 metri circa. Martedì quindi dovrebbe essere una giornata più luminosa su tutta la regione con cielo poco nuvoloso e per alcune ore dovrebbe soffiare un po' di bora moderata sulla costa. La tendenza per i giorni successivi sembra riproporre la situazione di persistente ristagno di umidità nei bassi strati, con la presenza di aria mite in quota per il periodo, e ci sarà nuovamente inversione termica. Avremo cielo grigio, con foschie e qualche piovigine su pianura e costa. Tempo migliore invece in montagna, soprattutto in quota. Da parte mia e di tutto lo staff dell'Osservatorio Meteo dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, cordiali auguri di Buon Natale a tutti gli ascoltatori. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi ad un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. Buina annade a Vence a San Stefin le Seren, ovvero sarà una buona annata se il giorno di Santo Stefano, domani, il cielo è sereno. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione, rinnovandovi gli auguri di buone feste, vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?